Buongiorno, a me va bene tutto per il campionato, basta che poi però sappiate gestire l'Otito, che altro che le saette di Giove. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. We all know that this terrible virus that is all across Europe made football and all life in Europe quite impossible. We think that postponing the Euro is the only chance to get a chance to the national leagues and to all the club competition to finish their competition. Buongiorno a tutti, credo che pensare al futuro, alla ripresa, sia non solo fondamentale ma anche terapeutico. Ieri l'UEFA è stata tempestiva e appropriata dopo che l'avevamo criticata la settimana precedente. Euro 2020 diventa Euro 2021 così com'è. Ora ci immaginiamo i calendari del risveglio. Giovanni Capuano collegato con noi, ciao Giovanni, ciao. Eccomi, ciao Carlo. Luigi Pardo, a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, perché tutti quanti vogliamo fare qualche domanda. E lo ringrazio, a Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi, buongiorno, grazie. Soddisfatto? Lei aveva spinto per un rinvio dell'europeo, è soddisfatto della situazione attuale? Era un auspicio, credo condiviso da parte di tutti. Avevamo rappresentato un momento di criticità nel ipotizzare la ripresa dei nostri campionati con la presenza di una discriminante importante rappresentata appunto dalla fase finale del campionato europeo. Venendo meno questa discriminante, adesso abbiamo sicuramente maggiori possibilità nel posizionare alcune date all'interno di questi due mesi, maggio e giugno, quindi per arrivare ad una deadline prevista del 30 giugno, sperando che questo possa essere sufficiente. Naturalmente tutti gli interlocutori qui presenti possono intervenire, Giovanni Capuano prima, poi chi, prego Presidente Gravina, a vostra disposizione. Giovanni. Prego Presidente, oggi abbiamo letto sui giornali qualche ricostruzione secondo cui le federazioni, alcune leghe sarebbero un po' insoddisfatte del punto d'incontro raggiunto ieri, perché ci sarebbe il rischio che in caso di partenza sul filo i campionati vengano sacrificati alle coppe con una sorta di diritto di primogenitura. Ce lo conferma e qual è la vostra posizione? Beh, la nostra posizione credo che sia la posizione che è emersa nel confronto che abbiamo avuto ieri con tutte le altre 54 federazioni. Priorità alle competizioni nazionali, con la possibilità di inserire anche delle date di gare internazionali come la Champions League e l'Europa League. È evidente che noi sappiamo benissimo che i campionati nazionali sono autonomi, possono essere gestiti autonomamente, sicuramente tenendo conto anche delle date internazionali. Noi daremo priorità al nostro calendario, non vogliamo penalizzare nessuno, sappiamo benissimo che in caso di impossibilità nel completamento di tutte le gare dovremo ricorrere a modifiche di format, così come la stessa UEFA ha previsto nel caso in cui ci dovesse essere l'impossibilità di utilizzare tutte le finestre, così come è stata rischedulata l'ipotesi di posizionamento delle competizioni internazionali, sappiamo benissimo che ricorreranno ad una modifica di format, così come è stato prospettato. Ecco, quindi c'è un problema di compatibilità, insomma, di calendari. Allora la UEFA ha indicato diverse ipotesi di partenza. Quella più ottimistica prevede la partenza addirittura il 14 di aprile, quindi si manterrebbe la formula attuale. Poi ho visto una partenza prevista ai primi di maggio, l'ultima ipotizzata al 13 di giugno, quindi chiaramente queste con modifiche di format. La finale di Champions League è prevista il 27 di marzo, Europa League il 24 di giugno, Europa League il 24 di giugno. In tutto questo, in questo progetto di nuove date, bisogna tener conto che la UEFA ha previsto anche nel mese di giugno l'ipotesi di definire anche i play-off per individuare le quattro mancanti per la fase finale, il che significa stop per le nazionali dal primo al 9 di giugno, quindi questo va sicuramente a complicare il progetto di posizionamento delle date. Noi, c'è stato anche comunicato che sarà costituito un gruppo di lavoro che credo già questa mattina, oggi pomeriggio, cominciavano a verificare le prime ipotesi, un gruppo di lavoro che prevede la partecipazione delle leghe, di rappresentanti della UEFA, per capire esattamente come possono essere e come si possono conciliare tutte queste esigenze tra campionati nazionali, campionati internazionali e competizioni internazionali e fase finale dei play-off, appunto posizionati ai primi di giugno. Pierluigi, dicevi? Sì, no, io volevo capire qualcosa di più dell'eventuale cambio di format, quindi immagino dei play-off, se c'è già una struttura precisa e appunto come sono le posizioni da parte dei diversi presidenti e diversi stakeholder, e poi insomma nella speranza ovviamente di ricominciare, se c'è un piano di crisi finale, qualora non ci fosse la possibilità di partire con un format minimo di partite, che cosa potrebbe succedere in quel tipo di situazione? Si potrebbe arrivare a un congelamento dello status quo e a una ripartenza direttamente con la prossima stagione? Ovviamente è un caso malaugurato che nessuno di noi per ovvi motivi si augura. Ma per motivi scaramantici non lo prendo in considerazione, sarebbe davvero una iattura, ma lo dico non per il mondo del calcio, per il valore, certo, della competizione. Avremo altri problemi. Mi preoccuperebbe davvero per il nostro paese, quindi mi auguro, spero e sono fermamente convinto, cerchiamo anche di spingere sull'acceleratore dell'ottimismo per far sì che ci sia una partenza sulla quale noi stiamo lavorando. La nostra partenza è ipotizzata dal 2, 3, 4 maggio per far sì che ci sia fino al 30 di giugno il completamento di tutti i campionati. Sottolineo ancora una volta, faremo in modo che attraverso richieste al nostro legislatore, quindi alle nostre autorità di governo, attraverso organismi internazionali dello sport, UEFA e FIFA, chiedere anche la possibilità, e su questo c'è assoluta sintonia con i nostri colleghi spagnoli, con Luis Rubiales, presidente della Federazione Spagnola, per far sì che ci possa essere, nella malaugurata ipotesi di non completare al 30 giugno, di sforare almeno per 10-15 giorni il mese di luglio. Quindi l'ipotesi è completare i campionati, ove questo non dovesse essere possibile valuteremo una leggera modifica di format, giocare quanto più possibile e poi eventualmente, se questo non ci permetterà di definire gli organici per la stagione 2021, arrivare comunque ad una modifica di format e quindi a quel punto probabilmente ricorreremo ai playoff e ai playout. Marco Bellinazzo, sai benissimo e ne parli e ne scrivi tutti i giorni come le implicazioni economiche siano da considerare in maniera importante e stringente. Sì, saluto il Presidente Gravina, insomma personalmente. Buongiorno Marco, buongiorno. Apprezzo tantissimo l'idea dei playoff e sarebbe una scelta coraggiosa del nostro calcio. Vorrei che fossimo chiari tutti, perché qui stiamo parlando di un'ipotesi di ripartenza, ma comunque parliamo di un'ipotesi di ripartenza a porte chiuse e magari si spera nell'ultima fase magari di aprire finalmente gli stadi e di festeggiare insieme questa liberazione dal coronavirus. Ma volevo chiedere due cose brevissime al Presidente Gravina. Una che mi curiosiva molto a proposito dei danni economici dal rinvio europeo. Si parla di una cifra, a mio avviso, spropositata di 300 milioni, che tra l'altro dovrebbe essere sopportata anche in parte dalle federazioni. Volevo sapere se ieri avete affrontato questo tema e come. E appunto sui danni economici ci sono stati già dei provvedimenti importanti del governo, ma tutto il settore calcistico, dalla Serie A alla Lega Pro e al settore, diciamo, dei dilettanti, delle scuole calcio, sta soffrendo, non solo il calcio, e quindi se c'è qualche altra priorità di cui stavi discutendo col governo per interventi che possano appunto sostenere il governo in questo settore, che non è, ricordiamolo, solo Cristiano Ronaldo il suo stipendio, ma è un settore industriale di primaria importanza per il paese. Marco, hai centrato ampiamente l'aspetto della dimensione economica del nostro mondo, che sta vivendo davvero un momento di grande difficoltà, diciamo di grande crisi. Non a caso il legislatore ha inserito all'articolo 61,5, le federazioni e le società sportive come unici interlocutori per il governo, quindi come soggetti di riferimento, escludendo le leghe. Questo è un messaggio, credo, molto importante sul quale noi dobbiamo riflettere. La federazione si sta impegnando nel raccogliere tutti i dati che le singole leghe stanno elaborando. Sappiamo benissimo qual è l'impatto economico, sociale del nostro mondo, una delle più importanti industrie del nostro paese. Sicuramente un'industria che non si identifica con delle subindustrie, aziende singole, come sono rappresentate da singoli professionisti, ma esiste un mondo molto più articolato, molto più complesso, che è un mondo legato all'economia in modo diretto, ma che ha un indotto che sviluppa e coinvolge davvero tantissime industrie. Noi sappiamo benissimo che esistono degli accordi di natura contrattuale, da cui nasce l'esigenza di giocare, di adempiere a quei vincoli contrattuali per far sì che il danno possa essere limitato. Danno, ripeto, non annullato, ma soltanto limitato. Si parla di un minimo da 170 a 200 milioni per arrivare comunque ad un blocco, nel caso di blocco, dei nostri tornei fino a 500, 600, 700 milioni di danno effettivo. Quindi questo è davvero un momento di riflessione e su questo stiamo predisponendo una serie di richieste al nostro governo nel rappresentare questa criticità, visto che il mondo del calcio, dello sport è rientrato in uno dei settori come il turismo, come lo spettacolo, in un decreto legge il quale riconosce lo stato di crisi. Uno stato di crisi che ha bisogno comunque di quello che noi chiederemo, che io chiederò come primo elemento, una sorta di riconoscimento di forza maggiore, cioè abbiamo bisogno di un riconoscimento per far sì che ci possa essere anche la possibilità di rinegoziare al nostro interno alcuni contratti per creare un sistema di mutualità interno, perché noi dobbiamo dare anche un segnale, il nostro mondo deve dare un segnale di capacità di autosostentamento e soprattutto di solidarietà interna prima di potersi rivolgere all'esterno. I danni della UEFA sono danni che sono stati rappresentati in grandi linee. Sappiamo che esiste un fondo nel bilancio della UEFA che prevede comunque la possibilità in questi casi di poterlo utilizzare e aspettiamo delle indicazioni. Anche su questo tema la UEFA so che sta organizzando o ha organizzato un gruppo di lavoro per capire appunto l'impatto economico finanziario in termini di negativi per quanto riguarda lo spostamento dell'europeo all'11 giugno del 2021. Presidente, quando lei dice riscrivere alcuni dei paletti anche interni, significa che non è tabù pensare quindi a un taglio degli ingaggi per i calciatori? Qui parliamo soprattutto di Serie A. Credo che non deve essere un tabù, non può esserlo in un momento di emergenza, soprattutto mi riferisco a livelli particolarmente importanti. Credo che dobbiamo tutti insieme sederci intorno ad un tavolo, capire che il momento di crisi è un momento di crisi per tutti, l'emergenza vale per tutti e anche il nostro mondo deve avere la capacità, visto che si invoca tanto l'unità, lo stare insieme, il principio della mutualità, della solidarietà. Ecco, sono tutte espressioni che comunque devono andare all'interno di un contenitore che ha bisogno comunque di contenuti. Ecco, noi siamo chiamati oggi tutti ad un gesto di grande responsabilità, dando contenuto a quel grande contenitore che molte volte ci piace declinare con l'espressione solidarietà. Ecco, senso di responsabilità che si deve chiedere anche ai singoli componenti della Lega, no? Ai singoli club, perché mi sembra che in questo momento l'unità di intenti non sia completa, Presidente. Ma questo fa parte della natura umana. Io dico che da questa brutta esperienza per tutto il paese, per tutto il mondo, dobbiamo saper cogliere i lati positivi. O il nostro mondo, soprattutto in queste emergenze, riscopre, o se preferite scopre, il senso dell'unitarietà, il principio del sistema e soprattutto la capacità di relazionarsi in maniera corretta, unitaria, per tracciare un progetto, un percorso nuovo che ci porti ad un orizzonte che sia un orizzonte diverso, fatto di più luci e di meno ombre nel nostro mondo, altrimenti noi porteremo con noi in eredità solo le negatività di questa esperienza del Covid-19. Quindi io mi auguro che tutti insieme riusciremo a toglierci di dosso queste zavorre fatte di tante negatività per abbandonarle una volta per tutti e cominciare a ragionare con un'ottica di rivoluzione culturale vera nel mondo del calcio e, consentitemi, nel mondo dello sport. Pierluigi, ti lascio l'ultima domanda ricordando che l'unità di intenti cui facevo riferimento non è semplice, neanche attuale, anche perché ci sono già delle dispute sulla ripresa degli allenamenti, se non ovviamente dell'attività agonistica. No, io vorrei che il presidente ci raccontasse brevemente, insomma, facesse un po' la cronistoria di questi giorni. Lui ha avuto un ruolo, penso per esempio al momento in cui si discuteva porte aperte, porte chiuse, quel tentativo che era stato fatto in poche ore con una bozza, credo in qualche modo proprio ispirata da lui, di ricostruire un calendario che potesse tenere, ma ovviamente parliamo di 2 settimane fa, sembra un'era geologica fa. Sicuramente qualche momento poco elegante c'è stato, no? Parlo di quello che abbiamo visto a livello di Lega, però credo sia anche abbastanza in qualche modo legata a una situazione completamente emergenziale mai vista prima. Guarda Pier, hai perfettamente ragione. E diciamo, il momento è stato un momento difficile per tutti. C'era l'esigenza di contemperare allo stesso tempo quanto previsto all'interno di alcune ordinanze, quanto invece bisognava coltivare sotto il profilo delle proprie sensibilità, perché da un lato alcune ordinanze permettevano di poter disputare delle gare, dall'altra c'era una sorta di resistenza morale nell'essere preoccupati nel far scendere in campo degli atleti, quindi un momento di grande difficoltà. A questo poi bisogna aggiungere le difficoltà e soprattutto i contrasti che ne sono derivati da alcuni diritti, da alcuni obblighi contrattuali che discendevano dalla mancata disputa di alcune gare, quindi che ancora ci portiamo dietro e che comunque dovremo affrontare in tempi relativamente brevi. Quindi c'è stato un momento di tensione legato a partite da recuperare, tensioni legate a posizioni di classifica, a calcoli anche di natura personale legittimi, ma che comunque hanno generato anche delle tensioni interpersonali. Quindi momenti di grande difficoltà, momenti dove sembrato che si poteva riprendere l'attività a porte aperte, quindi si è deciso di rinviare alcune partite perché probabilmente, con molta probabilità, si poteva ipotizzare la riapertura di alcune zone o la restrizione di alcune zone rosse. Purtroppo poi la situazione è precipitata e quindi ci siamo trovati tutti in grandissime difficoltà. Oggi, come giustamente hai detto tu, quelle appartiene ormai ad un'epoca che ci sembra tanto lontana, ma stiamo parlando solo di 2 settimane fa, quindi oggi dobbiamo stare tutti quanti con la barra dritta, recuperare un po' di lucidità, e forse questa sospensione è utile anche per questo, puntare in maniera decisa su una diversa ipotesi di calendario. Noi ci stiamo impegnando per partire dal 3 di maggio, la data che abbiamo ipotizzato, quindi partenza dal 3 di maggio per arrivare al 30 giugno. Se dovesse slittare di una settimana, faremo in modo che si slitti di una settimana anche nel mese di luglio. Se tutto questo, per una serie di ragioni che noi non auguriamo, perché io mi augurerei di fare il campionato, non per il campionato, sottolineo ancora, perché vuol dire che siamo fuori da questo incubo infernale. Quindi fare in modo che ciascuno di noi abbia quantomeno la possibilità di poter programmare il suo lavoro e quantomeno avere la speranza che il campionato italiano riparte. Se riparte il campionato italiano, vuol dire che parte l'entusiasmo, la speranza per tanti italiani che diciamo sono tutti in trepidante attesa di qualche sprazzo di luce, di buone notizie. Ecco, noi almeno sotto questo profilo ce l'auguriamo, al di là di quello che in termini di solidarietà, permettetemi, di dare a tanti operatori, mi riferisco ai medici, agli infermieri, alle forze dell'ordine, a tutti coloro che stanno mandando avanti i servizi pubblici. Lo sottolineo, ci stiamo lavorando, per me lo scudetto vero lo meritano loro. Grazie Presidente, grazie davvero, buon lavoro e a presto. Buon lavoro. Grazie. E a presto. Arrivederci. Grazie. Possiamo commentare insieme, no? Mi sembra ci abbia dato un paio di notizie, almeno. Mm-hmm. Almeno sì. Un paio di notizie. La prima, che è stata ribadita anche adesso, è che di fatto, e prima citava anche la Federazione Spagnola, è già partito il lavoro per poter andare oltre il 30 giugno. Che mi sembra fondamentale. E quindi superare anche il limite temporale che è stato indicato ieri dai comunicati della UEFA. Parlava all'inizio il Presidente dell'impegno italiano e spagnolo per pensare di poter andare a luglio. Sappiamo che lì non sarà la UEFA a dover intervenire, ma dovrà essere la FIFA. Facendo delle deroghe ai sistemi contrattualistici e di tesseramenti. E la seconda, che secondo me è quella più importante, anche condivisibile, ma questa è una mia opinione, è che non c'è il tabù del taglio degli ingaggi. Cioè, questa è una crisi che per quota parte dovranno pagare tutti. Qui parliamo ovviamente, certo, dei grandi numeri della Serie A, perché è inimmaginabile pensare di tagliare il poco che prendono in Serie C o a scendere nei rimborsi ancora, certo, più. Chiaro. Chiaro, chiaro. E poi Marco Beninazzo, ci sarà anche il grosso nodo dei rapporti con chi tiene in piedi il sistema, cioè le televisioni. Sì, tra l'altro appunto sottolineava la cosa importante, cioè del rapporto diretto tra governo e federazione. Mi sembrava anche un bel rimbrotto a quello che hanno fatto le leghe, in particolare la Lega di Serie A in questo periodo, quindi sarà la federazione a fare da capofila. E tra i temi sul terreno c'è sicuramente da un lato quello dei tanti contratti di sponsorizzazione. Quando si faceva riferimento Gravina alla causa di forza maggiore, si riferiva anche a un elemento che può essere dirimente all'interno di controversie che si possono aprire tra club e sponsor, per le quote non ancora pagate, qualora si dovesse diciamo bloccare tutto, rallentare tutto, ridurre tutto. Il tema enorme che citavi sicuramente poi sarà quello dei diritti TV, considerando tra l'altro che proprio in queste settimane, in situazioni di ordinarietà, si sarebbe dovuto andare a lanciare il nuovo bando, a guardare al futuro, e c'erano grandi attese che magari qualche nuovo soggetto potesse entrare nel settore italiano, permettendo di superare il 1,4 miliardi che si ottiene attualmente. E tra l'altro appunto l'idea di andare anche a fine luglio per chiudere il torneo significa anche garantire un numero di partite tale che non metta nelle condizioni Sky o di DAZN, come dire, di pensare troppo al pagamento dell'ultima rata che devono ai club, insomma. Quindi sì, c'è molto sul tavolo, però ecco, rispetto a qualche settimana fa, Carlo, vedo magari maggiore lucidità nell'affrontare queste questioni, sì, ed è la cosa migliore. Io continuo a pensare che la decisione, Pier, che è stata presa ieri dall'UEFA, sia stata una volta tanto tempestiva e necessaria, dimmi. Guarda, qui l'unico elemento vagamente consolatorio è che è una crisi generale, complessiva, quindi non dovrebbe comportare un vantaggio competitivo di qualcuno nei confronti di qualcun altro. Siamo tutti nella stessa situazione, è chiaro che certi equilibri economici, certe controversie, appunto, anch'io ho colto il riferimento alla forza maggiore, ma quello è un tema che riguarderà ovviamente gli avvocati e le controversie. A livello di sistema e a livello di prospettiva è chiaro che si può andare verso uno sport più povero, con magari qualche eccesso in meno, questo è oggettivo, così come in questo momento è in crisi il petrolio, così come in questo, certo, momento sono in crisi tantissimi aspetti della vita economica, però ecco, da questo punto di vista è una crisi talmente globale che riguarda tutti, quindi non dovrebbe alterare, io credo, la competitività del nostro calcio, dei nostri club a livello mondiale. Poi, come sappiamo, dietro alle crisi c'è sempre, anche se è difficilissimo, certo, in queste ore così tormentate, c'è sempre comunque un'opportunità, un'occasione di ripensare a determinate cose. In questo momento è difficile vederla, però insomma bisognerà ritrovare un equilibrio. Mi sembra chiaro, ma sarà il mercato a disegnare l'equilibrio. Anche il riferimento al poter sforare il 30 giugno in qualche modo è è collegato al concetto della forza maggiore. Io quello lo vedo come no? fondamentale, perché certo. Inutile, una volta che abbiamo rimosso gli ostacoli di calendario, sarebbe folle porsene degli altri. Insomma, Giovanni prima faceva riferimento a delle situazioni che anche giuridiche che devono essere riviste, però mi sembra non possa essere quello l'ostacolo. No, io non credo che sarà nemmeno quello l'ostacolo. L'importante è mettere in fila le competenze e i momenti. Io ieri ho chiesto in qualche telefonata perché ad esempio la UEFA non si fosse spinta oltre quel 30 giugno, anzi lo avesse segnato come data ultima, e chiaramente c'è un tema di competenze, è una competenza della FIFA riscrivere eventualmente. Mi pare che Infantino ieri abbia lasciato trapelare che c'è ampia disponibilità. Poi è chiaro che non si potrà andare ad agosto, non si potrà immaginare di fondere le due stagioni. Però il calendario già previsto per l'europeo lo puoi sfruttare tutto. Finale prevista 14 di luglio, io penso che sia 12 di luglio, sì, quello intuitivo. Quello potrebbe essere ad esempio il modo di regalare ancora due settimane di ossigeno in più a tutte le federazioni, sì. E in particolare a quella italiana, che magari sarà la prima a riprendere, noi ce l'auguriamo, ma ricordiamoci che è anche quella che ha un arretrato di lavori da svolgere più ampio, perché mancano 12 giornate piene, manca una tredicesima per quasi metà dei club, per metà dei club, mancano semifinali e finali di Coppa Italia che probabilmente salteranno, ma sono comunque un tema, e tutto il resto che ci ha declinato il presidente Gravina. Io voglio solo dire una cosa sulla UEFA. Noi l'abbiamo criticata nei giorni scorsi giustamente, perché alcune immagini che abbiamo visto erano inaccettabili, immagini di stadi pieni, immagini di stadi vuoti con tifosi ammassati fuori, con giocatori che arringavano i tifosi. Però evidentemente c'è stato anche un lavoro che è cominciato prima e che ha poi portato all'accordo di ieri. Noi non possiamo immaginare che sia successo tutto in 24-48 ore sull'onda dell'opinione pubblica, e quindi forse il lavoro di sintesi dell'UEFA su 55 paesi che hanno 55 sensibilità diverse, 55 governi alle spalle e 55 modi di pensare differenti l'emergenza, è stato un lavoro molto più complesso di quello che noi abbiamo immaginato, sì. Semplicemente giudicando quelle immagini. Sì, sì. Allora, fermiamoci un istante per la borsa, torniamo subito dopo e continuiamo a commentare tutto quello che abbiamo sentito dal presidente Gravina e le vostre telefonate, i vostri WhatsApp 349-238-6666, WhatsApp, chiamate 800-24-0024. Ma scusate, non mi sembra difficile. Classifica d'inverno in cui tutti hanno affrontato tutti. Quello fa il seeding e viene fuori un torneo come nel tennis. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Dite che senso ha, ammesso che venga fatto, fare un torneino a giugno con i giocatori fermi da un mese, che vuole dire fare un trofeo Birra Moretti sostanzialmente, per assegnare un campionato che peraltro non interessa più a nessuno vincere, mi auguro. Non ha alcun senso. La federazione dovrebbe dire la stagione 19-20 si è conclusa senza l'assegnazione del titolo e ripartiamo nel 2021. Butto lì la provocazione: se a questo punto del campionato non fosse prima la Juventus, il campionato era stato decretato già finito con un vincitore. Ma dico io, perché non assegnare lo scudetto all'Inter, visto che le piacciono queste scudette qua? Potrebbe essere bello che ai playoff fosse proprio l'Atalanta a vincere lo scudetto, sarebbe una vittoria enorme per Bergamo e tutta la gente, e lo dico da tifoso della Juve. Ciao ragazzi, grazie per la compagnia. questi alcuni commenti via WhatsApp dei nostri ascoltatori. Io credo sarebbe il caso di mettere a parte disfattismo, ma anche di abbassare il livello della litigiosità e della, quasi dell'intolleranza. Che disfattismo sarebbe magari un trofeo Bira Moretti, però io credo sarebbe per tutti quanti necessario, anche economicamente, e non è una parolaccia questa, chiudere il torneo. Marco Beninazzo, assolutamente no, guarda, qui si sta prendendo un abbaglio, diciamo, nel senso che si guarda a quello che era il passato, il vecchio calcio italiano, perché ci sarà un calcio italiano pre e post coronavirus, come mi auguro anche di altri campionati, in cui sicuramente dovranno essere rivisti i livelli di spesa, i livelli di entrata, perché il problema non è solo dei danni diretti, possono essere quantificati solo in minima parte in questo momento, ma sono i danni, diciamo, all'economia, alle aziende che sponsorizzano, alle aziende che hanno come sono proprietarie di squadre di calcio, che soprattutto nelle serie minori stanno già iniziando a ritirare i loro investimenti. Quindi è chiaro che bisogna rivedere tutto dal punto di vista economico e strutturale, magari di pensare anche al format dei campionati, ma il livello di attenzione, di passione dei tifosi non verrà meno, ed è il motivo per cui il campionato in qualche modo bisogna finirlo, ed è il motivo per cui sinceramente io apprezzo tantissimo il modello dei playoff, magari anche 8 squadre, in cui si rimette in gioco tutto al di là degli individualismi. In questo momento non è importante, e non dovrebbe essere, perlomeno il mio auspicio, per nessuno chi vinca questo scudetto, e quindi in senso di appartenenza del tifo, ma di mettere in moto il motore del calcio italiano attraverso una competizione inedita che, con una risposta eccezionale, fa fronte a una situazione eccezionale, sì, per creare un interesse diverso, ripeto, facendo presente che si dovrà giocare a porte chiuse, e c'è un problema che si proietta anche sulla prossima stagione, perché il concetto di pandemia, ormai purtroppo siamo diventati esperti anche di queste cose, comporta che si chiuda la pandemia soltanto quando è passato un periodo che è di 9 mesi più 2 periodi di incubazione del contagio. Quindi sostanzialmente tra settembre e ottobre potrebbe esserci ancora qualche prefetto che impone la chiusura degli stadi, o comunque stadi meno frequentati, perché non è detto che ne usciremo. Questo non per fare l'uccello del malaugurio, ma perché si abbia presente bene la prospettiva e si adottino in sede calcistica, ma anche di istituzioni politiche, tutti i provvedimenti necessari a ammorbidire il più possibile gli effetti negativi di questa situazione. Altrimenti parliamo di questioni che non hanno senso, e come dire, andiamo come un ping pong tra l'allarmismo e una situazione invece di eccessiva rassicurazione che non produce nessun effetto positivo. Marco, buongiorno da Ravenna. Sì, salve, buongiorno. Senta, io ricollegandomi a quello appena detto, confermo che effettivamente devono passare 2 cicli di incubazione e molti mesi, per cui per giugno-luglio sicuramente non si riprenderà. Allora, la mia idea è questa qua, così si unisce l'utile al dilettevole. Praticamente si fa ripartire il campionato a settembre, finendo questo campionato, in maniera tale da assicurare lo spettacolo che è stato perso, e poi ripartire a gennaio con un nuovo campionato fatto di unica giornata. Quindi 18 giornate, 17 giornate, nel senso in campi neutri, così la gente poi è obbligata a spostarsi e quindi fa ripartire l'economia e il turismo, che sono state le categorie che hanno subito più perdite in questo periodo. Mi sembra un po' complicata, Pier. No, un po' complicata, divertente l'idea, quasi un'apertura clausura, addirittura pensavo io l'altro giorno in questa fase ormai di quarantena che tutti abbiamo dentro casa, che si potrebbe anche arrivare appunto a un modello in cui il calendario del campionato potrebbe diventare simile al calendario annuale, quindi cominciare a gennaio, utilizzare i prossimi mesi per finire tutto, ma in quell'ipotesi pensavo anche a un europeo, e a quel punto, ma no, è inutile adesso fare del fantacalcio. Io credo che ci siano aspetti economici, cioè nell'idea del nostro amico da casa praticamente ci sarebbe un girone in meno, quantomeno un girone in meno. No, bisogna sperare che tutto vada bene, provare a salvare il salvabile nel periodo fra maggio, giugno e luglio. Ripeto, mi sembra importante soprattutto il discorso del poter sforare il 30 giugno, perché questo è il tema fondamentale. fondamentale, perché può significare 4-5 giornate in più. Offside, sono un po' freddo, Marco, ma non perché non mi piacciono i playoff, mi piacciono, ma perché insomma il calcio vive anche di credibilità. Questo è un campionato che comunque è arrivato alla 26esima giornata, secondo me insomma sarebbe, però tanto è inutile, non decidiamo né io né te, decide il virus. Vabbè, questo, decide questo è evidente, questo è no, evidente. Certo. No, ma è una questione di gusti molto, molto personali. No, ma poi ragazzi, abbiamo un modo. L'innovazione, sì. Mi piace moltissimo l'innovazione, però allora a questo punto preferisco che finisca il campionato in maniera tradizionale e che magari ci sia un'innovazione l'anno prossimo per snellire in qualche modo il calendario. Se no? Poi per tu, l'anno prossimo. Tu, Giovanni Capuano, da questo microfono tocchiamo anche i livelli di litigiosità che vengono raggiunti, no? Già c'è casino sulla ripresa degli allenamenti, perché la Lazio oggi ha detto che lunedì ricomincia a fare allenamento contro parere di dei medici. Il giorno in cui anche in situazioni di emergenza si dovesse decidere per i playoff, siamo sicuri che non saranno tutti d'accordo, e anzi. No, ma noi sappiamo già che non saranno d'accordo, Carlo, però il tema mi sembra sia stato quello affrontato dal presidente Gravina prima, e cioè oggi i playoff non sono il piano A e non sono nemmeno il piano B. Sì, il piano sì. A è ricominciare il 2 maggio, il piano ultimo è poter ricominciare in una data sufficiente per arrivare a metà luglio a chiudere tutto. Se non si dovesse riuscire a rispettare uno di questi molteplici scenari, a quel punto che cosa si fa? E l'idea di Gravina, e mi pare che insomma oggi ce l'abbia confermato con forza due volte, non è congelare la classifica e decretare un vincitore, non è dichiarare sospeso il campionato e trovare il modo di mandare una classifica alla UEFA senza però dichiarare un vincitore, è provare a fare playoff e playout che probabilmente nasceranno e moriranno in questa stagione, ma così vanno interpretati. E io penso che ci si debba fidare a un certo punto, se quello dovrà essere il piano, e lo si debba far capire anche a quelli contrari, perché io non credo che si possa immaginare, diceva l'amico da casa, ma perché non sospendiamo tutto a settembre, ricominciamo con quello che manca di questo e poi a seguire ci inventiamo un campionato l'anno prossimo. Cioè, se il sistema calcio italiano, noi di questo ci occupiamo, perdonateci, sappiamo che ci sono cose più importanti, ma di questo ci occupiamo, ma se il sistema calcio ha una chance di restare in piedi, ce l'ha riuscendo in qualche modo ad affrontare in maniera emergenziale questa situazione. Immaginarsi di moltiplicare i danni e il disastro anche sulla prossima, io credo sia veramente una follia. Mimmo da Caserta, poi saluto tutti e uso gli ultimi minuti della trasmissione per un altro argomento. Mimmo, buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti gli intervenuti. Volevo chiedere una cosa, giusto per sapere, ad essere più tranquillo, perché io ho sentito in una trasmissione domenica scorsa che il pasticcio del 1 marzo, con l'invio della Juve, Inter, sì, e tutte le altre partite, praticamente testuali parole, un editoriale di Umberto Chiariello, testuali parole, che sarebbe stato Agnelli a fare fuoco e fiamme perché non si giocasse a porte chiuse per non perdere l'incasso. Ora, siccome questa è una cosa gravissima, se fosse vero, vorrei sapere se è vero, perché io da juventino, se è vero, non mi fa piacere che il mio papà si comporti in questo modo. Ma guardi, però credo che di quello che dicono altri interlocutori vada chiesto conto ad altri interlocutori. Esatto. Mi sembra che sia passati 20 giorni e noi abbiamo ricostruito le cose per quella che è la nostra versione. Poi se altri dicono e scrivono altro, non è che possiamo correre dietro a tutto. Al di là di tutto, c'è un aspetto fondamentale: è uno scenario di emergenza mai visto prima, con situazioni che sono cambiate di giorno in giorno. C'è stato un momento quando che la Juve possa aver avuto interesse a giocare la partita a porte aperte, ma è vero ed è legittimo, in un momento in cui la gente andava ancora a fare gli aperitivi ai Navigli. Cioè, questa è la verità. Cioè, se il governo di un paese non chiude un paese, e questo è successo fino a pochi giorni fa, è logico ed è legittimo che le società di calcio vogliano poter fare le partite. Questo non c'è discussione. Io vi ricordo che Juventus-Milan di Coppa Italia, fino al giorno prima si doveva giocare a porte aperte. Sì, sì. Parliamo del 4 marzo, 5 marzo, una roba del genere. Cioè, parliamo di meno di 2 settimane fa. Quindi, che la Juve possa aver avuto interesse, come le squadre che giocavano in casa in quel momento possano aver avuto interesse, come il fatto che alcuni prefetti hanno preso delle iniziative con l'accordo dei presidenti, e questo è normale. Ma non è una cosa che ci deve scandalizzare, cioè nessun presidente ha detto che voleva giocare a costo di mettere a repentaglio la salute del paese, questo io non lo immagino mai. È chiaro che in un momento diverso, completamente diverso, invece dal lockdown che c'è ora, in cui si andava al cinema, si andava al ristorante, si andava al supermercato, quello ci si va ancora oggi a distanza uno dall'altro, e beh, insomma, è ovvio che si voleste che una partita a porta aperta sia meglio una partita a porte chiuse, sì. Questo è indiscutibile, ma ripeto, parliamo di 15 giorni fa e parliamo di un'epoca. È come veramente il paleozoico e il neolitico, ecco, cioè, nelle ultime due settimane qualcosina è cambiato. Però Pierre e Carlo, insomma, dobbiamo anche dire con forza che siccome sono passati 15-20 giorni ed è cambiato il mondo, non solo sono cambiate le condizioni, ogni cosa va contestualizzata al momento in cui è successa, ma soprattutto continuare a discutere, perché è inutile che ci giriamo intorno, l'amico che è chiamato da casa era malizioso, diceva, riportava una tesi secondo cui la Juventus sì. controlla i calendari e quindi torniamo dietro di 20 giorni nelle polemiche di 20 giorni fa, non solo non serve a niente, ma è anche particolarmente spiacevole in questo momento. Noi abbiamo ricostruito, ragazzi, in queste settimane le cose come sono andate, se altri scrivono diversamente ne rispondono altri. Beh, chiaro, non rispondiamo certo noi, però quello che voglio dire, dobbiamo avere tutti minimo più di metterci nei panni degli altri, cioè c'è stata la discussione su Atalanta-Lazio, che lo Tito non voleva anticipare, sì, a venerdì, certo. Ecco, cioè, oggi quella discussione lì è lunare di fronte ai problemi che abbiamo, ai lutti che abbiamo, ai casini che abbiamo, così come è lunare pensare che una settimana fa si sia giocata la partita a Liverpool con 3.000 tifosi arrivati da Madrid. Sì. E quindi cerchiamo di essere, per carità, poi faremo un punto storico su come è stata gestita tutta la situazione, ma mettiamoci nei panni dei protagonisti man mano. C'è stato un momento in cui si sperava di riuscire a salvare la stagione senza dover chiudere tutto, certo. Perché si sperava. Certo, lo speravamo tutti noi, Poi quello che è chiaro, che quello che abbiamo detto 20 giorni fa, 10 giorni fa, una settimana fa o ieri, oggi vale per quello che vale. Grazie ragazzi, alla prossima. Saluto tutti, Marco Bellinazzo, Sole 24 ore, Pierluigi Pardo, Giovanni Capuano, ci fermiamo per il traffico, torniamo subito dopo. Sento parlare di campionato, finire il campionato, ma guardate che qua va per le lunghe. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Tom Brady's in the game. Showed some great poise in preseason. Let's see if it carries over to the season. Touchdown, Tom Brady! The Patriots are back in it. Here are the American Football Conference champions, the New England Patriots. È scontato come nei prossimi giorni, e noi siamo qui tutti i giorni, tutti convocati ogni giorno alle 14, nei prossimi giorni avremo modo di tornare sui rinvii dei tornei, sulle date, sull'Olimpiade, che sarà il prossimo tema estremamente stringente che ci toccherà nei prossimi giorni, la tempistica di un'Olimpiade che io vedo abbastanza incerta e spero di sbagliarmi, però è chiaro altrimenti che bisogna decidere come è stato fatto per l'Europeo per tempo. Ebbene, ci tenevo a chiudere questo programma parlando di un altro evento successo ieri in America, che non riguarda una volta tanto il coronavirus, ma logiche di mercato, perché c'è probabilmente il più grande giocatore di football americano di tutti i tempi, uno sportivo iconico, che viene rilasciato sostanzialmente da un club in cui aveva giocato per 20 anni, 20 stagioni, 2-0. Tom Brady lascia i New England Patriots per andare, ora si sa, a Tampa Bay. Saluto e ringrazio Massimo Oriani, Gazzetta dello Sport e voce degli sport americani per la Rosa. Ciao Massimo. Buongiorno a tutti, ciao. Il più grande di tutti i tempi, credo di sì, ma è come, per fare un parallelo magari sbagliato ma immediato, se la Juventus rilasciasse Cristiano Ronaldo che va nel Bologna, una roba così, no? Dopo aver giocato 20 anni alla Juve, però. Dopo aver giocato 20 anni alla Juve, bravo, non due stagioni, sì. E aver vinto 6 Super Bowl o 6 Champions potrebbe essere l'equivalente, se vogliamo fare un paragone. è arrivato quello che i tifosi, noi tifosi, mi ci metto anch'io, di New England temevamo, ma in fondo al cuore sapevamo che sarebbe successo, l'addio inevitabile. Era un matrimonio che purtroppo era destinato a terminare per svariati motivi, diciamo, ecco. Quali sono questi motivi? Perché va bene che la gratitudine non fa parte del mondo dello sport, nel mondo in generale probabilmente, ma nello sport professionistico in particolare in maniera anche abbastanza condivisibile, però Tom Brady è ancora un giocatore in grado di spostare, nonostante la carta d'identità dica che ad agosto, correggimi se sbaglio, sono 43, che sono, esatto, sono tanti anni per uno sportivo professionista. Però in questo caso specifico non so oggi quanti ce ne siano ancora meglio di lui. Infatti, ma il problema è che Belichick non ha cuore, è un allenatore più grande di tutti i tempi, ha sempre scaricato i giocatori un anno prima piuttosto che un anno dopo rispetto a quella che potrebbe essere la loro, tra virgolette, data di scadenza. Era convinto che probabilmente che Brady avesse fatto il suo tempo e che iniziare il processo di svecchiamento della squadra senza di lui subito era qualcosa che andava fatto. Un ragionamento che può essere valido per qualsiasi altro giocatore, non per il più grande di tutti i tempi, non per Tom Brady, che avrebbe meritato di finire la carriera con New England, anche perché non mi sembra che il piano, il progetto, che io spero che loro ne abbiano uno, per il momento non si vede, di trovare un sostituto all'altezza, direi che è impossibile, ma che comunque permette ai Patriots di poter competere la prossima stagione, al momento non si vede. Brady dal suo canto si è un po' stancato di questo tiramolla, del fatto di dover sempre essere messo in secondo piano quando gli dicevano prendi meno soldi per il bene della squadra, per poter prendere altri giocatori, soprattutto visto che negli ultimi anni quei giocatori che avrebbero dovuto prendere per fare la differenza non glieli hanno mai messi a disposizione. Massimo, mi viene in mente per immagine, magari sbagliato, forzata, Michael Jordan che chiude la carriera con Washington, con i Wizards. Ci può stare, rimanendo nello stesso sport, Jerry Rice che era andato a Oakland, a Seattle, Joe Montana che era andato a Kansas City, non hanno scritto pagine indimenticabili. Io credo che Brady a Tampa avrà occasione sicuramente di divertirsi molto, ha due ricevitori da 1000 yard a stagione, Mike Evans e Chris Godwin, ha un tight end giovane di grande talento come O.J. Howard, non è detto che cerchi di portare, se riuscirà a mettere la testa a posto, ed è un grosso se, Antonio Brown. Si parla anche di una trade con i Rams per Todd Gurley, running back, che allevierebbe un attimino la pressione sul passatore. Non credo sia una squadra che possa lottare per il Super Bowl, sono 17 anni che non vincono una partita di playoff, combinazione proprio il Super Bowl del 2002, 18 anni per cui, è dal 2007 che non si qualificano per i playoff. Sono la franchigia con la percentuale di vittorie più bassa nella storia dello sport americano, e adesso però oggi c'erano quasi 7000 persone nella, tra virgolette, coda virtuale online per abbonarsi ai Bucks per la prossima stagione. L'effetto Brady si fa già sentire. Per chiudere, Massimo, 30 secondi, ovvio che ne parleremo, sei già convocato virtualmente per le prossime occasioni, si parla oggi, altro sport, basket, NBA, di una chiusura ad agosto, il che vuol dire che, sempre tutto in teoria, i giocatori dell'NBA non andranno alle Olimpiadi, se dovessero esserci alle Olimpiadi. Io credo che l'Olimpiade non ci sarà, mi sembra che ci stiamo illudendo se pensiamo che possa... Lo penso anch'io. Ma non solo per... Molto semplicemente non c'è tempo materiale per fare i tornei di qualificazione di vari sport, in questo momento è tutto fermo, pensare che si illudersi che non ci svegliamo una mattina fra un mese ed è passato tutto mi sembra molto difficile, per cui finisse l'NBA ad agosto vorrebbe dire che ne siamo usciti. Bravissimo, grazie Massimo, l'abbraccio, a presto. A voi, buona ciao, continuazione a casa. Ciao Massimo Oriani, Gazzetta dello Sport, Laura Vanossi invece, insieme a Claudia Schiattoni in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, tutti convocati domani alle 14, vi aspetto. Minchia, è stato una montana russa. Ci vediamo domani, enjoy! Saluti!